alle knep, fucile d'occhi galli. Quando il mare un'azza a bolla blu, sotto un cielo di mille colori, ci troviamo con la testa all'ingiù, mentre tutta la gente assopita sulla sabbia bruciata dal sole. Ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio d'amor. Con le pinne, fucile d'occhiali, quando il mare un'azza a bolla blu, sotto un cielo di mille colori, ci troviamo con la testa in giù. Splash. La gente assopita sulla sabbia bruciata dal sole. Ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio d'amor. La la la la la la la la la la. Mentre tutta la gente assopita sulla sabbia bruciata dal sole, ci scaviamo nell'acqua salata.